Erano sicuramente altri tempi, quando ci amavamo come due amanti. Ricordo che la mattina mi saltavi addosso come una iena. Io ero il tuo leopardo, tu la mia tigre, la mia pantera. Ricordo che non avevi gli scrupoli che hai oggi a confessarmi i tuoi peccati, i tuoi segreti, i tuoi miraggi. All'epoca volevi figli e non vedevi il portafogli. All'epoca danzavi nuda, eri la stella nei miei ricordi. All'epoca io ero il tuo re e mi ascoltavi per ore ed ore. Oggi non c'è più castello, né regina, neanche un fiore. Come siamo finiti, I remember. Come siamo cambiati, I remember. Cosa siamo diventati, I remember. Dove sarà mai finito il nostro sogno in un imbuto? Come siamo finiti, I remember. Come siamo cambiati, I remember. Cosa siamo diventati, I remember. Dove sarà mai finito il nostro sogno in un imbuto? Erano sicuramente altri tempi, quando ci amavamo come due amanti. Il tempo che ho passato con te è sempre stato luminoso. Allora perché ora anche il gatto, quando ci vede, sembra offeso? Ricordi quando non avevo un soldo e tu credevi nelle mie canzoni e mi portavi sopra le nuvole a fare colazioni? All'epoca volevi figli e non vedevi il portafogli. All'epoca danzavi nuda, eri la stella nei miei ricordi. All'epoca ero il tuo re e mi ascoltavi per ore ed ore. Oggi non c'è più castello, né regina, neanche un fiore. Come siamo finiti, I remember. Come siamo cambiati, I remember. Cosa siamo diventati, I remember. Dove sarà mai finito il nostro sogno in un imbuto? Come siamo finiti, I remember. Come siamo cambiati, I remember. Cosa siamo diventati, I remember. Dove sarà mai finito il nostro sogno in un imbuto? Come siamo finiti, I remember. Come siamo cambiati, I remember. Cosa siamo diventati, I remember. Dove sarà mai finito il nostro sogno in un imbuto? Come siamo finiti, I remember. Come siamo cambiati, I remember. Cosa siamo diventati, I remember.